Parlavamo prima di tirannide, no? Non vi sarà sfuggito nel corso di questa settimana come l'occasione di liberarsi da ogni imputazione in tal senso Berlusconi se la sia vista offrire su un piatto d'argento dal regista Ronconi. Con quella strana idea di arricchire una messa in scena delle Rane di Aristofane al Teatro Greco di Siracusa con certe caricature del capo del governo e di altri esponenti della sua parte politica. La cosa, ricorderete, aveva fatto indignare due membri abbastanza autorevoli di Forza Italia, con la conseguente rimozione delle immagini contestate e il successivo intervento del Premier che graziosamente acconsentiva che fossero rimesse in loco. Concessione di cui i teatranti, detto tra parentesi, si sono ben guardati dall'approfittare, perché se a un artista una censura ogni tanto non può che fare del bene, l'autocensura rimane sempre uno dei metodi più efficaci per restare sulla cresta dell'onda, ma non è questo naturalmente il problema. Il problema è che l'episodio ha dimostrato come nessuno dei suoi protagonisti, a partire da quelli che lo hanno innescato, che sono la ministra Prestigiacomo e il sottosegretario Micicchè, e nessuno dei suoi protagonisti avesse la minima idea, non dirò su chi fosse Aristofane, che forse è troppo, ma sul significato del suo teatro sicuramente sì. E se è vero che l'ignoranza delle cose classiche nel paese è più diffusa di quanto si pensi, come vi può garantire chi, come me, ha speso una vita nel tentativo vano di spezzare il pane della cultura greca e latina a generazioni di studenti riottosi? È anche vero che chi siede al governo dovrebbe fare come minimo lo sforzo di non esibirla. Perché come si fa, santi Dio, a sostenere, come mi sembra abbia fatto appunto l'onorevole Micicchè, che Aristofane attaccava i tiranni e non i governanti eletti democraticamente? È vero che non è tanto facile comprendere la produzione drammatica antica quando ci viene riproposta sulle scene di oggi, al di fuori del suo contesto rituale e civile, e che le difficoltà aumentano quando i registi, come loro malvezzo, caricano la messa in scena di riferimenti ai problemi contemporanei. Ma insomma, chi Aristofane i governanti eletti democraticamente non li potesse soffrire, e lo si può leggere su qualsiasi bigino. A lui, in sostanza, piacevano i tiranni. Anche se non sarebbe corretto definirlo un uomo di destra, visto che ai suoi tempi la destra e la sinistra non erano state ancora inventate, almeno in senso politico, è largamente noto che poche cose lo facevano imbufalire quanto la democrazia. Nelle rane, che furono presentate, come certamente sapete, alle Enee del 405 a.C., la parabasi, che è quella parte della commedia in cui i coristi, rompendo la finzione scenica, depongono la maschera e danno voce direttamente alle opinioni dell'autore, la parabasi è dedicata a una perorazione della concordia, che significa in pratica la richiesta di riabilitare i promotori del colpo di stato aristocratico del 411, una proposta che non dovrebbe suonare male alle orecchie di chi si batte per la par condicio tra i partigiani e i ragazzi di Salò. Se gli onorevoli Micicchè e Prestigiacomo, che non so se abbiano fatto meno il liceo classico, ma appartengono comunque a un governo che del mantenimento di quel tipo di scuola si è fatto un punto d'onore, se avessero tratto profitto dai loro studi, saprebbero senza tema d'errore che essere svillaneggiati in una commedia di Aristofane, anche nella forma mediata di una caricatura esposta in scena, è garanzia inoppugnabile di spirito democratico e devozione agli interessi popolari. Ma il problema, ahimè, il problema è sempre lo stesso: non studiano. Questi ragazzi non studiano. Non capiscono che anche se uno può diventare sottosegretario o addirittura ministro, il rischio di fare uno scivolone su Aristotele lo corre sempre. Perché poi Berlusca ci fa la bella figura di chi la censura non sa neanche cos'è. I Ronconi e le Scobar si fanno un mucchio di pubblicità gratis come se ne avessero bisogno. E quelli che hanno scatenato tutto l'ambaradan per puro zelo si ritrovano con la nomia di censore in pectore come se non bastasse ignoranti come capre. Un'ingiustizia dalla quale speriamo che il loro leader voglia presto risarcirli, elevandoli quanto prima a responsabilità ancora più alte di quelle attuali. Ma per favore non alla direzione dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico.